Quarto discorso, il discorso di Tabuk. Il profeta, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, dopo aver lodato e ringraziato Allah, disse: il discorso più attendibile è il discorso di Allah nel Corano. E il punto d'appoggio più sicuro è la parola nata nel timore di Allah. La fede migliore è la fede di Ibrahim, e la pratica di vita eccellente è quella di Muhammad. Il detto più elevato è il ricordo di Allah, e questo Corano è il più affascinante dei racconti. La migliore delle pratiche religiose è quella che ha un solido fondamento, mentre la peggiore è quella senza fondamento alcuno. La migliore delle guide è la guida dei profeti. La morte più nobile è il martirio per la causa di Allah, e la cecità più profonda è il fuorviamento dopo aver ricevuto la giusta direzione. La migliore delle azioni è quella che giova, e la guida migliore è quella che viene seguita. La cecità peggiore è la cecità del cuore. La mano che dona è migliore di quella che riceve, e il poco che basta è meglio del molto che seduce e lascia insoddisfatti. La scusa peggiore è quella chiesta in punto di morte, mentre il pentimento peggiore è quello che sarà provato nel giorno del giudizio. C'è gente che va alla preghiera del venerdì controvoglia, e alcuni di loro non ricordano Allah se non con riluttanza. Tra i peccati più gravi c'è il discorso d'una lingua menzognera, e la ricchezza migliore è la ricchezza del cuore. La provvista migliore è il timore di Allah, e la sapienza più alta è il timore di Allah il possente, e la cosa migliore che alberghi nel cuore dell'uomo è la certezza incrollabile nelle verità dell'Islam, mentre il dubbio ha le sue radici nella miscredenza. Le lamentazioni eccessive e le lodi sperticate nell'elogio funebre appartengono al tempo dell'ignoranza. Il tradimento porta all'inferno. Il bere bevande alcoliche equivale a bruciare nel fuoco. La poesia lasciva è ispirata dal diavolo, e il vino è padre di molti peccati. Tra le cose che vengono mangiate, quella più abominevole è la proprietà dell'orfano. Prospera colui che accoglie l'ammonimento che gli viene da un altro, e sfortunato è colui la cui sventura gli venne decretata quando era ancora nel ventre di sua madre. In verità, prima o poi, ognuno di voi giungerà ad un luogo profondo 4 cubiti, dove starà fino al giorno della resurrezione. Il valore dell'azione sta nel suo esito, e il sogno peggiore è il sogno illusorio. Tutto quello che deve venire è vicino. Oltraggiare un credente è iniquità, e fargli la guerra è miscredenza. Mangiare la sua carne calunniandolo è disobbedienza ad Allah. La sua proprietà è inviolabile, come è inviolabile il suo sangue. Chi giura su Allah giurando il falso lo rinnega. Chi perdona sarà perdonato, e Allah rimetterà i peccati di chi avrà perdonato i torti ricevuti. Allah compensa bellamente colui che avrà affrontato con fermezza le avversità della vita. Chi insegue la gloria terrena sarà esaudito da Allah su questa terra. Chi sarà stato paziente riceverà da Allah una doppia ricompensa, e chi avrà disobbedito ad Allah sarà castigato. Chiedo perdono ad Allah, chiedo perdono ad Allah, chiedo perdono ad Allah. Nota: Tabuk è il nome di un'oasi che si trova nella regione nord della penisola araba, sulla pista carovaniera che congiunge lo Yemen a Damasco, allora capitale della provincia bizantina della Siria. Nell'anno 9 dell'Egira, il profeta, che Allah lo benedica e la ben gloria, con un'armata islamica si accampò a Tabuk, dove era giunto per arginare un progetto di invasione dell'Arabia da parte dell'armata imperiale bizantina. Gli strateghi bizantini, sorpresi e spaventati dall'inaspettata presenza a Tabuk del profeta e di un'armata islamica, annullarono il progetto di invasione. Durante la sosta a Tabuk, che si protrasse per circa un mese, il profeta, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, fece questo discorso che è passato alla storia come il discorso di Tabuk, Khutbatu Tabuk.